Thank you. Devo pas, o que te rileva a mim. si tolga la tapere e toper la grua. Movrata por te va bene che la batto tua. Oh, seguitemi sopra la mente il giorno andrò il collitore di l'ausilio d'oro di questo brando al fulmine cadranno gli empi cadranno il solo tutto me rifulgere di mia corona corona al sol vedrem rifulgere di mia corona al sol vedrem tutto rifulgere di mia corona al sol di mia corona corona al sol vedrem tutto rifulgere di mia corona al sol di mia corona corona al sol